anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è Basement Records per i recuperi vinilici del sabato sera qui sulle frequenze di Radio Wombat. Ho un bel po' di dischini da farvi sentire questa sera, cose nella maggior parte magari già messe, però ovviamente vi farò sentire altri brani che non vi ho potuto proporre e che sicuramente valgono la pena di essere ascoltati, e poi anche qualche cosina che ancora non era stato messo. Però vi avverto già dai preamboli che sarà una puntata esclusivamente di recuperi vinilici di tipo jazzistico, e quindi sapete già cosa vi aspetterà stasera. Però come sempre, prima di iniziare a intrufolarci tra i solchi di questi vinili, ricordiamo i contatti per mettervi appunto in contatto con noi, scusate il gioco di parole, qui a Radio Wombat. Il sito è sempre lo stesso, radiowombat.net, anche la nostra frequenza in onde medie in AM è sempre 1359-1359 sulle vostre radioline o autoradio, rigorosamente in onde medie se passate nei dintorni di Firenze. Vi ricordo 1359 la frequenza e la mail è sempre postawombat@insiberia.net e i nostri canali social sono sempre su twitter.com/radiowombatfi e su facebook.com/radiowombatfirenze. Però appunto rigettiamoci in questi vinili che appunto in parte vi avevo già proposto. Il primo vinile che ci andremo a riascoltare stasera è un vinile di questa serie che vi ho già ampiamente parlato nelle precedenti puntate di Basement Records, questa collana dei grandi del jazz della Fabri Editori, roba, una collana diciamo tra virgolette didattica della fine degli anni 70, suppongo, appunto edito da Fabri Editori, scolastica ma veramente molto interessante, interessanti perché ce ne sentiremo più di uno stasera, che con appunto brani che non vi avevo fatto ascoltare in precedenza. E il primo che ci andremo ad ascoltare stasera è un trombonista bianco direttamente proveniente da New Orleans, Jack Teargarden, e il brano che ci andremo ad ascoltare è Bourbon Street Parade. In questo caso la formazione è un sestetto con Jack Teargarden ovviamente al trombone, Don Goldie alla tromba, Henry Gesta al clarinetto, Don Ewell al pianoforte, Stan Pulse al contrabbasso e Barrett Dreams alla batteria. E questo è Jack Teargarden con Bourbon Street Parade. Tra l'altro Bourbon Street era un luogo, una delle principali vie di New Orleans, dove si svolgeva una delle strade dove si svolgeva il consueto Mardi Gras, chiamiamolo il carnevale di New Orleans, dove tutte le influenze di questo grande porto degli Stati Uniti facevano convergere appunto in questa grande festa popolare che era il Mardi Gras, e Bourbon Street era una delle principali strade di New Orleans. Non so se lo è ancora tuttora, mi immagino di sì, perché credo sia rimasta nel vero centro storico di New Orleans e non penso proprio che l'abbiano distrutta, abbia ancora tuttora un valore storico. E questa appunto è la Bourbon Street Parade della Jack Teargarden Sextet in questo caso. E siete sempre qui ai recuperi vinilici di Basement Records, naturalmente su Radio Wombat. Thank you. questo appunto era il sestetto di Jack Teargarden. Sente benissimo appunto il suono di New Orleans, dei primordi, di quei ruggenti anni 20. E sempre da questo vinile, da questa raccolta, che in realtà è il primissimo volume di questa raccolta, infatti è intitolato La storia del jazz, e ci andremo ad ascoltare adesso un altro brano di un'altra sono tutte leggende stasera, siamo veramente tra i pesi massimi di vari periodi, comunque tutti all'interno dell'ambito jazzistico, e il prossimo peso massimo è Bud Powell, uno dei maggiori pianisti che ha portato il nuovo verbo del bebop ai fasti e alla gloria del genere. Appunto, purtroppo ha avuto una vita molto breve, però il suo lascito artistico è un solco nella storia del jazz, uno dei massimi fautori della trasposizione del bebop, in questo caso in ambito pianistico. Il brano che ci andremo ad ascoltare, che è uno standard, è I'll Remember April, in questo caso è in trio insieme al suo fedelissimo amico dietro le pelli, ovvero Max Roach, un altro gigante del bebop, e poi il terzo, Carly Russell, al contrabbasso. Questa è una registrazione del 10 gennaio del 1947, registrata a New York. Siamo in fondo agli anni 40, in piena esplosione bebop, e quindi appunto andiamoci ad ascoltare il trio di Bud Powell con questa I Remember April. Ovviamente siete sempre qui ai ritrovamenti vinilici di Basement Records, sempre qua a Radio Wombat. Thank you. Questa era I Remember April del Bud Powell Trio 1947. Qua eravamo appunto in piena esplosione bebop. E adesso per il prossimo artista, per il prossimo vinile, perché sto per cambiare vinile sul piatto, rifacciamo un attimo un passo indietro e ritorniamo verso i primordi, verso New Orleans, ritorniamo indietro verso gli anni 20, in questo caso, ma l'artista di cui stiamo parlando aveva già iniziato a suonare all'inizio del Novecento, intorno agli anni 10, stiamo parlando di Sidney Bechet, uno dei simboli dell'influenza creola, appunto, nella nascita del jazz dei primordi. Sassofonista soprano e clarinettista, mi stavo un po' intortando a dirvi quale strumento suonava il buon Sidney. Abbiamo già trattato la sua figura in diverse puntate di Basement Records, infatti mi era capitato più volte di mettervi qualcosa di suo, come fare altrimenti, visto l'importanza che ha avuto. E i brani che vi sto per proporre uno dietro l'altro, fortunatamente sono uno di seguito all'altro in questo vinile. Il primo è I Thought I Heard Buddy Bolden Say, del 1939, perfezionato ancora da una formazione di New Orleans atipica. Si tratta dei Jelly Roll Morton New Orleans Jazzmen, riunitisi con questo organico: Sidney De Paris alla tromba, Claude Jones al trombone, Albert Nicholas al clarinetto, Sidney Bechet al sax soprano, Matty Caldwell al sax tenore e Jelly Roll Morton al piano e alla voce. Lawrence Lucy alla chitarra, Wellman Broud al contrabbasso e Zatty Singleton alla batteria. Il sound è assai peculiare e molto interessante. Buddy Bolden era un leggendario trombettista di New Orleans. Tra l'altro, leggenda narra che fu l'ispirazione per Louis Armstrong, perché all'inizio del Novecento Buddy Bolden era la figura di spicco della fervente scena musicale di New Orleans di inizio Novecento. Purtroppo non sono arrivate a noi nessuna registrazione di Buddy Bolden o della sua orchestra, perché semplicemente non fece in tempo a poter registrare, perché morì prima dell'avvento delle prime registrazioni, quindi lo conosciamo solo per le leggende che ci sono state tramandate dai pionieri di New Orleans. E appunto questo pezzo di Sidney Bechet è una dedica a Buddy Bolden. E poi subito di seguito ci andremo ad ascoltare un altro brano, appunto, di Sidney Bechet, che è un altro capolavoro, ed è Indian Summer, registrato il 5 febbraio del 1940 da un gruppo capeggiato da Bechet, ovviamente, come band leader, Sonny White al piano, Charlie Howard alla chitarra, Wilson Ernest Myers al contrabbasso e l'allora ancor giovane e sconosciuto Kenny Clark alla batteria. E l'interpretazione di Bechet, ovviamente, al sax soprano non dà adito a altri dettagli, perché è stato uno dei pionieri di questo strumento abbastanza desueto, che poi è stato portato alla ribalta dell'ambito jazz solo con la fine con la metà degli anni 60, quando ricominciarono a usarlo anche John Coltrane e Steve Lacy. Però Sidney Bechet è assolutamente un pioniere di questo particolare tipo di sax. E appunto ascoltiamoci una di seguito all'altra, I Thought I Heard Buddy Bolden Say del 39 e Indian Summer registrata il 5 febbraio del 1940. Ricordatevi che questi sono sempre i recuperi vinilici di Basement Records e siete sempre qui su Radio Wombat. E dove se no? Buddy Bolden say, you nasty but you dirty, take it away. You're terrible, you're awful, take it away. I thought I heard him say, I thought I heard the Buddy Bolden shout, open up that window and let that bad air out. Open up that window and let that foul air out. Yes, I thought I heard Buddy Bolden say. Thank you. questa era la seconda traccia di Sidney Bechet. Nella prima, appunto, la voce era del grande Jelly Roll Morton alla voce e al piano. Notevole la voce di Jelly Roll, altro personaggione di cui vi ho ampiamente raccontato le gesta qua su a Basement Records. Uno dei tanti che dichiarava di essere il padre del jazz, anche se non proprio del jazz, quantomeno del ragtime, forse glielo dobbiamo riconoscere. E ora andiamo avanti di pochissimi anni, in realtà, perché siamo a cavallo tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, in piena grande depressione americana. E qui stiamo parlando di un leggendario band leader e nonché grandissimo pianista. Stiamo parlando di Fletcher Anderson, uno forse dei grandi band leader degli esordi, prima di Duke Ellington, prima di Count Basie, prima di tutti quelli che verranno a seguire e scriveranno pagine leggendarie della storia del jazz. Però ecco, se dobbiamo riconoscere essere stato uno dei primi a portare appunto al grande successo a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 30 le grandi big band, si può proprio nominare il grande Fletcher Anderson, autore, band leader e pianista sopraffino, talent scout, scopritore di talenti. Cioè, nella sua orchestra è inutile starvi a dire quanti futuri giganti del jazz hanno militato e sono stati scoperti appunto da il grande fiuto di Fletcher Anderson. Ma non divaghiamo e diciamo subito che l'orchestra che eseguirà il brano che ho selezionato per voi, che è Stealing Apples, la formazione di questo brano del 1936, qui siamo già ampiamente alla metà degli anni 30, e l'orchestra appunto in quel frangente schierava Dick Vance, Roy Eldridge e Joe Thomas alle trombe, Ed Coffey, Fernando Arbello ai tromboni, Buster Bailey al clarinetto, Scoop Scary al sax alto, Elmer Williams e Chu Berry ai sax tenori, Horace Anderson al piano, Bob Lessie alla chitarra, John Kirby al basso, Sid Catlett alla batteria e chiaramente in questo caso al piano non c'era Horace Anderson, che è il fratello di Fletcher, ma in questo brano c'è proprio Fletcher Anderson. Ed è proprio Fletcher Anderson con un vigoroso assolo in questo brano ad aprire l'esecuzione, seguito dal bravissimo Chu Berry al sax tenore e dall'estrosissimo Roy Eldridge alla tromba e da Buster Bailey al clarinetto. Si tratta di un head arrangement e in ogni caso è un'esecuzione eccezionale, in questo caso della seconda metà degli anni 30. Questa è l'orchestra di Fletcher Anderson. Questi sono i vinili di recupero di Basement Records e naturalmente siete sempre qui sulle frequenze di Radio Wombat. Thank you. questa appunto era l'orchestra di Fletcher Anderson di metà degli anni 30. Ma di band leader leggendario a band leader leggendario, adesso andiamo al già precedentemente nominato Duke Ellington, The Duke, il Duca. Una delle figure, penso, centrali di 50 anni di storia del jazz, uno strumentista, un arrangiatore e un compositore, forse non mi vorrei allargare, però a mio gusto personale e nella mia ignoranza lo considero uno dei più grandi compositori del secolo del 1900, ecco, cioè per farvi capire l'importanza che questo mostro sacro ha ricoperto all'interno di questo ambito musicale, con una carriera così longeva e che è riuscita a toccare tanti stili e tanti generi diversi, ovviamente orientarsi all'interno della discografia di Duke Ellington è un po' come girare all'interno di un oceano e non si finirebbe mai di scoprire cose nuove e cose assolutamente meritevoli. Però in questo caso, in questo vinile di recupero che fa sempre parte appunto di questa collana che vi dicevo prima, qui siamo proprio all'inizio degli anni 50 e il brano, per essere esatti, proprio alla fine del 1950, perché vedo che questo brano è stato registrato il 19 dicembre del 1950 e appunto con questa The Tattooed Bride, la sposa tatuata, che magari adesso non ci dice niente, ma cioè, non ci troviamo assolutamente niente di strano, però all'inizio degli anni 50 non è che fosse propriamente così. E con questa Tattooed Bride facciamo l'ingresso nella dimensione più sinfonica ellingtoniana, dimensione cui fanno capo oltre 40 anni di esperienze espressive e da cui sono sortiti capolavori come Black, Brown and Beige, Liberian Suite, Harlem Suite e New Orleans Suite e tante altre opere di ampissimo respiro in cui in ogni caso il riferimento e il compiacimento jazzistico sono costantemente presenti. The Tattooed Bride, così prossima alla matrice spiritual e quindi così intensamente nera, è forse tra le suite ellingtoniane meglio strutturate e certamente tra le più valide di quelle che ci sono arrivate della immensa discografia di questo autentico gigante della musica che è stato Duke Ellington. E appunto adesso ci andremo ad ascoltare The Tattooed Bride, 11 minuti e 40 di puro e immenso sollazzo ellingtoniano. Godete insieme a me se siete appassionati di musica jazz e ascoltiamoci questa magnifica opera di Duke Ellington e della sua orchestra del 1950, ovviamente qui ai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente su Radio Wombat, e dove se no. Thank you. E questa era la lunghissima Tattooed Bride della Duke Ellington Orchestra nel 1950. Che dire, tra arrangiamento e orchestrazione di tutto e di più. Pensate, già un brano che dura quasi 11 minuti nel 1950. Poi appunto, cioè, parlare di Duke Ellington, potremmo stare qui a parlarne per giorni probabilmente, visto la sua lunghissima carriera e la sua importanza all'interno della musica jazz, ma non solo puramente della musica jazz, direi della musica in generale, ecco. E appunto, venire fuori da un personaggio come Duke Ellington non è assolutamente facile, però qua ho già pronto in mano il prossimo vinile che vi avevo già ampiamente proposto. Infatti vi avevo, credo che vi avessi già fatto sentire interamente il secondo lato di questo album, che è una raccolta appunto di Lenny Tristano, pianista, bopper, ma soprattutto ricordato per quella frangia del bop che è stata chiamata cool jazz, insieme appunto anche a Miles Davis. Se dovessi dare un consiglio da dove partire per chi volesse addentrarsi dentro la carriera e e le opere di Lenny Tristano consiglierei sicuramente. Per il primo album da ascoltarsi è Cross Currents, che è veramente un autentico capolavoro di questo pianista. Ora, questo vinile di recupero era un vinile allegato ad una rivista jazz italiana di discreta fama, ovvero Musica Jazz, e in questo caso era l'allegato alla pubblicazione di Musica Jazz dell'ottobre del 1988, e ci sono un po' appunto delle opere di Lenny Tristano, tra cui appunto il secondo lato che già vi avevo fatto ascoltare un po' di puntate indietro qui su Basement Records. Era il Barry Ulian of All Star Modern Jazz Musicians, dove Barry Ulianov, che se non ricordo male era il direttore di Downbeat, di una delle maggiori riviste jazz americane, aveva riunito i pesi massimi del jazz di quel periodo e li aveva fatti suonare insieme. Ma appunto, avendovelo già fatto sentire, in questo caso andremo sul lato A e ci ascolteremo un brano semplicemente intitolato Blues, che è un brano registrato a New York l'8 ottobre del 1946. In questo caso Lenny Tristano suonava in trio insieme a Billy Bauer alla chitarra, Clyde Lombardi al contrabbasso e chiaramente Lenny Tristano al piano. E che dire, non ci rimane altro che ascoltarci questo blues di Lenny Tristano, e siete sempre qua ai vinili di recupero di Basement Records. Chiaramente questa è Radio Wombat, Blues, Lenny Tristano Trio, Radio Wombat. Thank you. questa era Blues, anzi senza titolo, in realtà chiamata Blues quantomeno qua su questa raccolta. Questo era il trio di Lenny Tristano, fine degli anni 40, e appunto di pianista in pianista, appunto Duke Ellington, addirittura Fletcher Anderson, Duke Ellington, Lenny Tristano, e adesso proseguiremo con un altro peso massimo, non ai livelli di Duke Ellington, che per quanto mi riguarda è quasi irraggiungibile, però è un altro più che discreto interprete del piano in ambito jazzistico, e stiamo parlando di Fats Waller. Fats Waller iniziò a registrare agli inizi degli anni 20 sia come accompagnatore di cantanti blues ma anche come pianista singolo, ma il suo esordio discografico vero e proprio avvenne nel 1926, quando l'allora Victor Talking Machine, oggi più nota come RCA Victor, lo scritturò e lo fece iniziare ad incidere appunto a metà degli anni 20. E la doppietta di brani che ci andremo ad ascoltare adesso di seguito, il primo è I've Got My Finger Crossed, ho le dita incrociate, appunto di ben augurante, è stata registrata il 29 novembre del 1935 ed è eseguito da Herman Audrey alla tromba, Gene Cedric al sax tenore e al clarinetto, Fats Waller al piano e al canto, e James Smith alla chitarra, Charlie Turner al contrabbasso e Yank Porter alla batteria. È un altro tema prettamente musical, quindi particolarmente gradito al ridanciano e buon tempone Fats Waller, che era un personaggio estremamente divertente. Ma non per questo poco stimolante. Vi sto leggendo le note interne delle copertine dei vinili, se non ci avreste fatto caso. Una delle meraviglie appunto del vinile, che all'interno potete trovare un sacco di informazioni, perché volendo ci si poteva scrivere tantissimo, e infatti ve lo sto leggendo. Ecco, adesso mi sono disperso. Infatti, appunto, questo era un brano particolarmente allegro, ma non per questo poco stimolante. Infatti, i due fiati, anzi tre, perché Cedric suona prima il sax e poi il clarinetto, si fanno notare. E il secondo brano che ci andremo ad ascoltare subito di seguito a questa I Have Got My Finger Crossed è Christopher Columbus. Una volta letto appunto il titolo di questo brano, come non farvelo ascoltare? Non lo conoscevo e mi ha incuriosito il titolo, quindi ve lo proporrò appunto come secondo brano di Fats Waller, subito dopo I Have Got My Finger Crossed. E in questo caso questa Christopher Columbus è dell'8 aprile del 1936 e in realtà fu una delle hit di Fats Waller. Ebbe veramente un discreto successo a livello di vendite e di pubblico. E troviamo ancora accanto a Waller, che canta e suona magnificamente, come poter pensare altro, troveremo sempre Audrey, Cedric e Turner, mentre a ricompare Casey alla chitarra, un altro inseparabile compagno del leader, e Arnold Boldem siede alla batteria. L'atmosfera è eccessivamente festaiola, quasi da sagra paesana, nuoce forse a Cedric, il cui solo al sax tenore è ripetitivo oltre illecito, e ad Audrey che si avventura in acrobazie troppo avventate, mentre invece sembra favorire la verve dell'indemoniato Fats Waller, che canta e suona splendidamente. E appunto andiamoci ad ascoltare questa doppietta di Fats Waller. Il primo brano appunto sarà I've Got My Finger Crossed del 1935 e subito a seguire ci ascolteremo Christopher Columbus dell'8 aprile del 1936, quindi registrata nell'anno successivo rispetto alla prima. E questo è Fats Waller e la sua band, e siete sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente qui sulle frequenze di Radio Wombat, e dove se no. Columbus sailed the sea without a compass. When his men began a rumpus, up spoke Christopher Columbus, yes. There's land somewhere until we get there. We will not go wrong if we swing a song. Since the world is round, oh, we'll be safe and sound, oh. Till our goal is found, oh, we'll just keep rhythm bound, oh. Since the crew was making merry, Mary got up and went home. They came a yell for Isabel, and they brought on the rum and Isabel. No more mutiny, no. What a time at sea. With diplomacy, Christy made history, yes. Mr. Christopher Columbus. Uh-huh. He used rhythm as a compass. Yes, yes. Music ended all the rumpus. Yes. Wise old Christopher Columbus. Lots of Christy, yeah. Uh-huh. Yes, yes, yes. Mm-hmm. here, and he's going back. Yeah. Ah, look at that. Uh-huh. In the year 1492, Columbus sailed the ocean blue. What I think. Grande Fats. E adesso con il prossimo vinile di recupero, anche questo già ve l'avevo già proposto una volta, cioè, faremo il salto del fossato, come possiamo definire appunto quel... Ve l'avrò raccontato non so quante volte questo particolare momento del jazz tra Basement Records e Tonight Alive, non so quante volte, e appunto gli ultimi quattro vinili che metterò stasera fanno parte del post 1960, ovvero dopo l'avvento del free jazz, che era appunto il 1960 con il famoso doppio quartetto di Ornette Coleman. Però qui andiamo a un altro peso massimo del free jazz e del jazz in generale del post 1960, e stiamo parlando di Archie Shepp. Ve ne ho già ampiamente parlato nelle precedenti puntate di Basement Records, non vorrei continuarvi a tediare con le solite storie, e infatti per non raccontarvi le solite storie, appunto avendo tutte queste note di copertina all'interno dei vinili, che bellezza, cioè, oggi con l'avvento della musica liquida, degli MP3, non si sa più niente. Già invece con i CD le informazioni c'erano ancora, ma erano in un formato estremamente ridotto. Nel vinile di informazioni, se avevano voglia di scrivere, c'era da riempirci i libri. E quindi perché non approfittare appunto di quando qualcun altro fa il tuo lavoro? E quindi parliamo un po' da Archie Shepp, sassofonista tenore, anzi parliamo innanzitutto della band che suona in questo disco insieme ad Archie Shepp. Ovviamente Shepp è al sax tenore, Charles Greenlee al trombone, Dave Burrell al pianoforte, Cameron Brown al contrabbasso, Beaver Harris alla batteria. E questo quintetto figura appunto in questo disco. È il gruppo che nell'estate del 1975 spopolò letteralmente, e lo si sente dagli applausi, al Festival Jazz di Montreux, una delle maggiori manifestazioni europee del genere. E queste registrazioni sono state effettuate appunto durante l'esibizione di Shepp e dei suoi compagni. Il brano che ci andremo ad ascoltare a breve è U Jama, e si traggono le stesse impressioni appunto che c'erano anche nei precedenti brani del disco, ma per questioni ovviamente meramente di tempo non posso farvi ascoltare. E Shepp e i suoi uomini lo affrontano da veri e propri boppers, però i loro fraseggi sono più moderni, meno schematici, più mordenti e corposi di quelli dei loro predecessori. A volte l'impostazione del discorso è chiaramente free, anche la sonorità rimangono affrancate dalla norma accademica del jazz, ma è tuttavia condizionata da ferre quadrature. Ora, una cosa che c'è da aggiungere di Archie Shepp è che era forse uno dei musicisti e compositori più militanti nel nostro senso del termine, perché ricordiamo che in quegli anni, appunto post anni 60, iniziò la feroce lotta per la conquista almeno di una parte dei diritti civili da parte degli afroamericani, e Archie Shepp era proprio un militante molto vicino alle posizioni delle Black Panthers, ad esempio, per farvi il primo esempio che mi viene in mente, forse il più militante tra i grandi compositori jazzistici della corrente free, appunto, di quegli anni. E appunto da questo lavoro del 1975, registrato live al Jazz Festival di Montreux, adesso ci andremo ad ascoltare U Jama. Ovviamente è Archie Shepp con il suo gruppo, e qui siete sempre ai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente su Radio Wombat. Jets. We'll be right back. Che meraviglia questa Ujamaa del gruppo di Archie Shepp, un pezzo meraviglioso secondo me, che si sente anche se c'è l'influenza ovviamente visto i tempi del free jazz, ma comunque riusciva a mantenere ancora delle tracce di quello che era il jazz tradizionale, che poi invece con altri interpreti della stessa corrente verrà volutamente e verrà completamente stravolto. Invece Shep comunque riusciva a mantenere ancora dei fili con la tradizione jazzistica e li faceva ben presenti, nonostante spero si senta la differenza appunto con cioè, questo brano, che è molto più vicino a noi, infatti registrato nel 1975, rispetto ai brani che abbiamo ascoltato fino adesso, che al massimo erano degli anni 50, si sente già un radicale cambiamento del tipo di sonorità e del tipo di approccio compositivo completamente diverso, dovuto appunto a quel crack che è stato il free jazz, che lo considero sempre un po' come un parallelo. Cioè, il free jazz è stato per il jazz quello che il punk è stato per il rock, diciamo. Sente proprio il cambiamento di tipo di approccio alla materia sonora, ecco. E parlando, rimanendo sempre in ambito free, un altro assoluto gigante di questa corrente dagli anni 60 in poi, stiamo parlando appunto di Albert Tyler, anche lui già proposto qua tra i vinili di recupero di Basement Records. Vi avevo proposto il suo grande classico, mi ricordo, Ghost, e anche Vibration, se non ricordo male, e quindi mi sembra giusto mettervi oggi, per continuare, appunto ormai siamo al di là della trincea del free, e quindi continueremo su questa corrente. E quando Albert Tyler arrivò alle luci della ribalta e quando morì al termine di una brevissima stagione, la razza cui apparteneva quella nero-americana era ancora in collera, riprendendo le parole di Malcolm X, con gli Stati Uniti. Ora, adesso la collera è meno evidente. 15 anni hanno cambiato molte cose. Qui stiamo parlando, siamo negli anni 80, quando è stato scritto appunto queste note di copertina. Infatti sono passati 15 anni e hanno cambiato molte cose, e da un po' di tempo i neri non combattono più. Qualcosa hanno ottenuto, molte promesse sono state formulate e molto poche sono state effettivamente rese fatti, al di là delle classiche parole al vento, come sempre. Si è placata quella corrente intellettuale che sosteneva con le proprie armi, le parole, gli scritti e soprattutto la musica, cioè il jazz, la cruenta lotta che i neri stavano sostenendo contro i bianchi. Vi era un rumore di spari, di vetrine infrante, di cose frantumate, e il jazz era lì a partecipare con i propri suoni acri, con la sua rabbia musicale, a queste battaglie. Era il free jazz, e nel free jazz Tyler si insinuò, si instaurò, e con il free jazz iniziò a scagliare i suoi primi messaggi di fuoco. Ma era un fuoco particolare. La sua musica non era violenza, era sarcasmo amaro, era ironia sofferta, quella che sortiva dalle atmosfere bandistiche o dall'allucinante tensione, dal rito voodoo, dall'espressione creata da Tyler. Il suo impegno politico era squisitamente celebrale. Ayler non amava la lotta armata, che invece aveva in Archie Shepp il suo grande eroe da barricata. I fendenti di Albert Ayler colpivano di dentro e forse più a fondo. E la sua stupenda continuità è in risalto anche nella conclusiva Mothers, conclusiva del lato A di questo album, attraverso i suoi lunghi e sofferti monologhi, attraverso i suoi lamentosi dialoghi, attraverso le sue melanconiche polifonie. Ma a ben vedere continuità e progressione che hanno una parte rilevante nel bagaglio espressivo di Murray sono anche tra le principali caratteristiche dell'ironia tagliente e penetrante della musica di Albert Ayler. Infatti in questo album Albert Ayler era al sax tenore insieme a degli altri grandissimi, ovvero Don Cherry alla tromba, Gary Peacock al contrabbasso e da Sonny Murray alla batteria. E adesso, dal 1975, ci andremo ad ascoltare Mother di Albert Ayler e il suo gruppo. Questi sono sempre i vinili di recupero di Basement Records e siete sempre qui sulle frequenze di Radio Wombat Firenze. E dove se no? Thank you. Questo brano di Albert Tyler e il suo gruppo si avverte già molto, molto di più che abbiamo saltato quel fosso del free jazz, appunto, come vi stavo dicendo prima nella presentazione, nell'introduzione di questo album. Però, appunto, stiamo parlando di Free, quindi come non mettere colui che ha iniziato tutto, il più volte citato in qualunque trasmissione io mi presenti. Appunto, stiamo parlando di Ornette Coleman e del suo gruppo. Questo è un altro vinile di quella famosa raccolta, appunto, dei grandi del jazz. Ora, questo non ha note all'interno della copertina, è solo un vinile riassuntivo, perché vedo che il titolo del vinile è Dalle origini alle avanguardie. Infatti si parte con il lato A, con i New Orleans Rhythm Kings, quindi siamo negli anni 20, e si finisce con il brano che andrò a farvi ascoltare a brevissimo, ovvero con Happy Fool di Ornette Coleman. Siamo, credo, quasi a cavallo degli anni 70, praticamente. Non vorrei dirvi una cosa per un'altra, perché non ho, appunto, note che possono aiutare la mia labilissima memoria. E, appunto, però, parlando di Free, dopo che ci siamo ascoltati Archie Shepp, ci siamo ascoltati Albert Tyler, non potevo non mettere un pezzo di Ornette Coleman che ancora non vi avevo proposto. E, appunto, questo è il caso di Happy Fool di Ornette Coleman e il suo gruppo. Non ho neanche le note su chi suonava insieme a lui in questa registrazione, quanti erano, dove erano, in che anni erano, quindi prendetela così, e ci stiamo per ascoltare, appunto, Happy Fool della band di Ornette Coleman. Non vi dimenticate mai che siete sempre qua ai Vinili di Recupero di Basement Records, e queste sono le frequenze di Radio Wombat. Mm-hmm. Questo era appunto Ornette Coleman e la sua band con Happy Fool. Appunto siamo arrivati all'ultimo vinile di stasera e dopo la tripletta free appunto con Eiler, Shep e Ornette Coleman passiamo oltre, siamo negli anni 80 e ci andremo ad ascoltare quello che ormai era diventato il jazz, possiamo dire ai giorni nostri, anche se questa è una registrazione del 1982, quindi sono passati ben 40 anni, ma per appunto, visto la storia del genere di cui stiamo parlando stasera, che era iniziata a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, stiamo parlando di un'evoluzione quasi centenaria, e quindi ci andremo ad ascoltare un brano in duo, in questo caso di Anthony Braxton, con al suo fianco alla contrabbasso John Lindberg. Ora, questo è un vinile sempre che era allegato alla rivista che dicevamo prima, Musica Jazz. Questo, in questo caso invece è un allegato di un molto, molto precedente, perché se vi ricordate il precedente vinile che avevamo ascoltato di questa raccolta era dell'88, qui invece stiamo parlando del febbraio del 1984, e il titolo di questa raccolta è I maestri del sax alto, e ci sono, come vi potrete immaginare, tutti i calibri da 90 di questo strumento: Johnny Hodges insieme all'orchestra di Duke Ellington, Charlie Parker ovviamente non poteva mancare, The Bird, Lee Konitz, Cannonball Adderley, Art Pepper, Ornette Coleman, Eric Dolphy, tutti i più grandi interpreti di questo strumento all'interno della storia del jazz. Infatti, se pensate, si parte da Benny Carter con una registrazione del 1933 e si conclude con il brano che ci andremo ad ascoltare a brevissimo, appunto, di Anthony Braxton in coppia con John Lindberg al contrabbasso. Curiosità che mi ha fatto definitivamente scegliere questo pezzo come chiusura della puntata di stasera è il fatto che questo brano è stato registrato il 19 luglio del 1982 a Firenze, quindi come facevo a non metterlo? Mi stavo chiedendo prima fuori onda, nel 1982 quale jazz club c'era qui a Firenze, si dovrebbe consultare il buon Enrico Romero, sicuramente ci potrebbe dare una risposta. Vorrei dire il Soul Peanuts, ma non so se nel 1982 fosse già aperto, che era uno storico locale jazz qua a Firenze. Non lo so, forse lo sapremo e lo scoprirò nelle prossime puntate di Basement Records. Però intanto adesso andiamoci ad ascoltare appunto questa composition number 23J, che non so, una delle curiosità della carriera artistica di Anthony Braxton è che a un certo punto smise di dare i nomi alle proprie composizioni. Ora qua addirittura si chiama Composition Number 23J, ma in moltissime altre sue composizioni i titoli dei brani non erano nemmeno lettere, erano direttamente simboli, proprio per una scelta artistica, ovviamente. E quindi ascoltiamoci questa Composition Number 23J, registrata il 19 luglio del 1982 qui a Firenze. E siete sempre qua sui vinili di recupero di Basement Records, naturalmente su Radio Wombat, e dove se no. The Questo appunto era Anthony Braxton in coppia con John Lindbergh al contrabbasso il 19 luglio del 1982 a Firenze. E questo, appunto, come già precedentemente detto, era l'ultimo vinile selezionato per voi stasera, con appunto qualche chicca che era rimasta nascosta tra i vinili che vi avevo già proposto nelle puntate precedenti. Siamo arrivati alla fine anche della puntata di stasera di Basement Records e, come di consueto, prima di passare i consueti saluti, vi ricordo i programmi qua su Radio Wombat per la giornata di domani, di domenica, che mi raccomando, come ho detto ultimamente, tenete d'occhio il palinsesto di Radio Wombat, perché siamo in fase di riassestamento, nuove trasmissioni che si aggiungono, altre che si spostano in altri giorni, quindi è un periodo dove vale sempre buttare un occhio al palinsesto della radio, perché è in continua evoluzione. Però a domenica, per adesso per adesso, in questa fine di ottobre, siamo con le trasmissioni ricominceranno domani mattina con la replica delle lezioni universali d'esistenza, che comincerà alle 9 e finirà verso intorno alle 10:30, e poi, come di consueto, il classico appuntamento domenicale con il notiziario anticlericale, che andrà in diretta a mezzogiorno all'ora di pranzo, e poi ci sarà della gran musica selezionata per voi dagli speaker e dai DJ di Radio Wombat, per poi concludere la giornata alle ore 21:30 con il furto di trasmissioni altrui, ovvero l'appropriazione non in debita ma debita da parte di Radio Wombat delle trasmissioni ritenute meritevoli, ecco, delle nostre radio amiche e gemelle in giro per l'Italia. Non so domani sera quale sorpresa ci riserverà il furto delle trasmissioni altrui. No, sarà una sorpresa anche per me quando lo ascolterò, però so una cosa, la do per certa, che sarà una trasmissione che varrà la pena di essere ascoltata. E a questo punto non posso far altro che augurarvi un buon proseguo di sabato sera, un buon fine settimana, una buona prosecuzione qui sulle frequenze di Radio Wombat, e per quanto mi riguarda ci risentiremo sabato prossimo in diretta, come di consueto inizia alle 10:30. Spero che ormai l'abbiate imparato. Sono una delle poche trasmissioni che in ormai più di 6 anni non ha mai cambiato né orario né giorno della settimana in cui trasmetto, e quindi vi rinnovo l'appuntamento per sabato prossimo. Ancora non ho deciso se con Tonight Alive o Basement Records. Sarà l'ennesima sorpresa per settimana prossima. Un abbraccio a tutti, buon fine settimana, buon tutto, viva Radio Wombat! Radio Wombat, da sempre e obiettivamente la migliore.